L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale prendiamo così spunto da una discussione che finalmente è partita sulle pagine dei quotidiani, ed è quella sul referendum del prossimo 17 aprile, il referendum sulle trivellazioni. Ne parliamo oggi anche noi, almeno in questa prima parte, stando però lontani, lo promettiamo, dalle spaccature interne al PD, ad esempio, sul votare o non votare, ma approfondendo e facendovi così conoscere le peripezie di Greenpeace Italia, che ha chiesto al Ministero dell'Ambiente dei dati sull'inquinamento provocato o non provocato dagli impianti di estrazione. Sentiremo com'è andata. Facciamo un cappello però a tutto questo. Diciamo volgarmente referendum sulle trivelle, ma in realtà quello su cui siamo chiamati a votare il 17 aprile è un ambito ben più ristretto delle trivellazioni in mare, perché si tratta di decidere se vietare il rinnovo delle concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti entro le 12 miglia dalla costa italiana, quindi una fascia entro la quale comunque è già vietato effettuare nuove trivellazioni. Qui stiamo parlando di vecchie trivellazioni. Il referendum quindi riguarda soltanto 21 concessioni del totale delle concessioni esistenti. Una concessione in Veneto, due in Emilia-Romagna, una nelle Marche, tre in Puglia, cinque in Calabria, due in Basilicata, sette in Sicilia. Sono tra gli impianti più vecchi che abbiamo, alcuni risalgono agli anni 70. Detto questo, quindi, Greenpeace Italia ha pensato di dare un contributo alla discussione sul referendum e sul tema ampio delle piattaforme nei mari italiani e ha chiesto al Ministero dell'Ambiente i risultati sui prelievi che vanno fatti vicini alle piattaforme. Benvenuto ad Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace. Buongiorno. Allora, ripercorriamo un po' quello che è stato il vostro lavoro per far capire com'è anche difficile ottenere certi dati e come forse certi dati neanche siano disponibili. Esatto, questi dati ad oggi sono indisponibili benché si tratti di dati pubblici, di rilievo pubblico. Non sono mai stati pubblicati dal Ministero dell'Ambiente su un sito, su alcuna pubblicazione. Noi ci siamo posti questo problema, si fa un gran parlare delle piattaforme che potrebbero arrivare nei nostri mari, delle trivellazioni che potrebbero essere fatte, ma nessuno sa nulla, letteralmente nulla, dell'impatto che hanno le attività già oggi in corso e che sono poi, guarda caso, quelle sulle quali insiste il quesito referendario. Dunque, le piattaforme presenti nei nostri mari inquinano, hanno un impatto Che tra l'altro sono 130, non sono mica poche. Noi tendiamo a sottovalutare complessivamente. Poi ci sono quelle al di sotto delle 12 miglia, quelle più lontane, ma insomma sono tantissime. Esattamente. Sono un gran numero e devo dire il dato non rassicurante rispetto al lavoro che noi abbiamo fatto è che, avendo chiesto questi dati, appellandoci alla legge sulla trasparenza, al Ministero dell'Ambiente, abbiamo ottenuto i piani di monitoraggio di sole 34 piattaforme anziché delle 135 censite dal Ministero come operative. Dunque ci chiediamo se vi sia stato, come dire, un'omissione da parte del Ministero, e sarebbe gravissima, o addirittura se per le rimanenti 100 e più non vi siano questi dati di monitoraggio, che sarebbe pure preoccupante. Sì, perché questi dati di monitoraggio che alla fine avete ottenuto sono piuttosto particolari, no? Cioè sono di alcune piattaforme e sono stati ottenuti attraverso l'ISPRA su un committente specifico. Sì, sono di 34 piattaforme operative nell'Adriatico, sono tutte piattaforme a gas e sono tutte 34 piattaforme di Eni. Eni ogni anno è tenuta, diciamo, per l'appunto a inviare un monitoraggio ambientale al Ministero dell'Ambiente. Questo monitoraggio lo realizza l'ISPRA, che è un'agenzia del Ministero dell'Ambiente, quindi abbiamo una situazione un po' particolare in realtà, per cui il controllore in qualche modo sta di fatto lavorando per il controllato. E soprattutto, da questi piani di monitoraggio emergono delle criticità ambientali. Noi abbiamo analizzato i dati relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, quindi è una serie storica, non ci siamo limitati a vedere i numeri di un anno solo, e abbiamo visto sostanzialmente che I livelli di inquinamento sono costanti, si ripetono di anno in anno in proporzione e ci dicono fondamentalmente che tre piattaforme su quattro di quelle censite da questa ricerca che abbiamo fatto non sono in grado di rispettare i parametri ambientali previsti dalle norme, sono fuori dai livelli massimi di inquinamento almeno per un inquinante. Nel 60% dei casi lo sono per due inquinanti e così via. Questo per quello che riguarda l'analisi dei sedimenti. Poi abbiamo verificato anche la presenza di inquinanti, di metalli pesanti e di idrocarburi nei tessuti degli organismi che crescono intorno alle piattaforme. Normalmente si analizzano dei nitidi, che sono degli ottimi biomarker per fare questo tipo di indagini, e anche lì abbiamo trovato una quantità di sostanze che peraltro sono cancerogene, e se parliamo di organismi marini parliamo anche di catena alimentare, che dovrebbero, diciamo, se non altro destare attenzione o allarme. Non ci risulta, per concludere, che alcuna di queste piattaforme sia stata fermata, sia stata revocata una licenza, siano state imposte sanzioni o siano stati previsti degli upgrade, degli aggiornamenti tali da consentire a quella piattaforma, a quella infrastruttura di tornare a lavorare entro limiti, diciamo, di impatto garantiti dalla norma. Certo, con un percorso norma. Che vada a ridurre e non a peggiorare l'inquinamento. Quindi, ricapitolando, l'ENI è tenuta a fare queste analisi, le ha fatte chiedendole all'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha rilevato questo inquinamento, ha dato questi dati, è morta lì la cosa. Fine. Per quello che ci... Cioè, a parte poi oltretutto c'è quella situazione appunto ambigua dell'ISPRA che da una parte deve controllare e dall'altra lavora per quello che deve controllare, però c'è anche il fatto che oltre non siamo andati, oltre al fatto che è stato rilevato una situazione fuori norma. Lo ripeto, no, a noi non risulta nessun tipo di intervento da parte del Ministero. E neanche dopo la pubblicazione di questi dati avete avuto alcun riscontro da parte del Ministero? No, non abbiamo avuto ulteriori riscontri e non solo, stiamo ponendo una questione. Abbiamo evidenza del fatto che vi sia un'attività di raccolta e commercializzazione di questi mitili, delle cozze che noi abbiamo studiato, diciamo, con questo rapporto, delle quali abbiamo acquisito dei dati, e che questa commercializzazione va avanti da almeno 20 anni. Vi sono delle cooperative che ripuliscono i piloni delle piattaforme presenti in Adriatico. Tra queste piattaforme vi sono anche quelle censite per l'appunto nel nostro rapporto, e queste cozze vengono per l'appunto vendute, finiscono sui piatti degli italiani. Abbiamo sollevato la questione per chiedere rassicurazioni, per verificare che tipo di controlli vi siano. La cosa si è, diciamo, rivelata essere un gran polverone, cioè ha destato molto scalpore e anche molte polemiche. Ad oggi noi siamo gli unici che hanno fornito dei numeri precisi, che, lo ripeto, non sono nostri ma sono di fatto elaborati da ISPRA per conto dell'azienda che gestisce queste piattaforme, e che ci dicono che quel prodotto, anzi quell'organismo, nel momento in cui diventa un prodotto alimentare non è certamente un prodotto salubre. Per contro, da parte di tutti i difensori, diciamo così, della cozza di piattaforma, ad oggi sono arrivate molte smentite, ma nessunissimo dato. Abbiamo anche scritto all'ARPA dell'Emilia Romagna e alla ASL dell'Emilia Romagna, perché sono poi le agenzie titolate a verificare, a controllare questo tipo di alimenti prima che siano commercializzati, e anche lì ad oggi nessunissima risposta. Questo è grave perché questi prodotti stanno sui banchi dei nostri mercati, vengono comprati e vengono consumati. Ma questi dovrebbero comunque essere controllati, voglio dire, si fa normalmente anche per quelli che non crescono sui piloni, no? Delle piattaforme. Certo, la questione è vedere come vengono controllati. Cosa si va a cercare dentro, quindi? Non solo cosa si va a cercare dentro, ma anche se vi è la possibilità, per caso, di verificare, come dire, proprio un certo numero di cozze, una particolare raccolta, oppure se per caso invece non ci sono delle forme di analisi a campione che riguardano magari un pescato più ampio, cioè il pescato della zona, nel quale può finire per l'appunto la cozza che è cresciuta sulla piattaforma, ma anche quella che è cresciuta a qualche chilometro da lì e magari è buona, magari è pulita. Noi questo non lo sappiamo. Cominciamo ad avere il sospetto che dei dati specifici su quel tipo di prodotto, cioè sui nitidi che crescono a ridosso delle piattaforme, non ci siano, perché ad oggi non ci sono stati messi a disposizione. Ci sembra grave, cioè ci sembra che su una questione alimentare come questa, stiamo parlando di quello che tutti mangiamo, dovrebbero esserci delle risposte immediate da parte delle autorità competenti, e invece non ci sono. Sì, comunque la si metta, sì, se i dati non ci sono, se i dati sono un po' camuffati, comunque la si metta, questa è sicuramente una situazione preoccupante, appunto perché va anche a toccare non solo la teoria ma anche la pratica di quello che mangiamo tutti i giorni. Grazie molte, grazie. Grazie molte a te. Andrea Boraschi, ricordo, responsabile campagna energia e clima di Greenpeace Italia, e ovviamente continueremo a seguire le vostre attività di cui abbiamo la massima stima. Grazie molte e a risentirci. Ci ritroviamo tra pochissimo. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Amore. Amore. Amore. Amore! Amore! In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 1212. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo insieme, questa è la seconda parte dell'altro pianeta e non potevamo mancare di ricordarvi che oggi ricorre l'ora della Terra, l'Earth Hour, il più grande evento mondiale del WWF contro il cambiamento climatico. Stasera si spegneranno simbolicamente le luci per un'ora, dalle 20.30 alle 21.30, dal Pacifico alle coste atlantiche, in tutte le città, in tutte le case, in tutti i monumenti che vorranno celebrare appunto l'ora della Terra. Sono passati pochi mesi davvero dalla conclusione della COP21, la grande conferenza sul clima di Parigi, dove ci si era lasciati con un grande entusiasmo. Poi c'era chi diceva si poteva fare di più, chi diceva questo comunque è una buona base. Beh, noi a Parigi conoscemmo finalmente di persona Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia del WWF. Oggi la ritroviamo, benvenuta Maria Grazia. Salve a tutti. E ti chiediamo subito come sembra che stiano andando secondo te le cose da Parigi all'Earth Hour di oggi. Qualche cosa sta succedendo sotto traccia. Innanzitutto quello che sta succedendo è che a livello mondiale gli investimenti e le installazioni delle rinnovabili stanno aumentando. Quella che segna un po' il passo in questo momento è la nostra vecchia Europa, dove gli investimenti nelle rinnovabili sono diminuiti e non si stanno prendendo degli atti coraggiosi, in particolare quello di aumentare il target per il 2030, quel target che rientra appunto nell'accordo. A Parigi si è detto noi dobbiamo stare sotto un grado e mezzo o entro un grado e mezzo di aumento della temperatura globale. Questo vuol dire che le azioni vanno accelerate e che i target che gli stati si sono dati non sono sufficienti. L'Europa, se vuole assumere una posizione di leadership o perlomeno seguire, deve prendere dei provvedimenti conseguenti. Il 22 aprile presso le Nazioni Unite ci sarà la firma dell'accordo di Parigi ed è annunciato che ci saranno i capi di Stato e di Governo, quindi lì noi ci aspettiamo un rinnovo e un rilancio degli impegni da parte di tutti. Noi per esempio dobbiamo fare il piano di decarbonizzazione, siamo uno dei pochi paesi al mondo che non ce l'ha. C'è veramente molto lavoro da fare in Italia. Assolutamente, c'è il lavoro del passare, tanto per cambiare, dalle parole ai fatti, perché tutti noi siamo coscienti che dobbiamo uscire dai combustibili fossili e che usciremo dai combustibili fossili. E la preoccupazione dell'ambientalista è che lo facciamo abbastanza rapidamente per evitare che i problemi ambientali diventino ingestibili, ecco, questa è la questione. Earth Hour, l'ora della Terra, è una manifestazione che unisce tante persone in tutto il mondo, perché una delle basi per vincere questa sfida è la collaborazione. Parliamoci chiaro, non è che spegnendo la luce un'ora noi vogliamo diminuire le emissioni e il consumo di energia, bisogna diminuirlo tutto l'anno quello. Ma il gesto simbolico può portare per esempio a organizzare una cena tra amici, un concerto con dei compagni di musica, tante cose di questo genere. Magari anche quindi l'occasione per parlare di questi temi, no? Perché poi alla fine se non se ne parla, se non entrano nel nostro quotidiano, non si ottengono dei cambiamenti. Esatto, per parlare punto, e per parlare anche di questi temi, perché insomma bisogna ricominciare a parlare. In una nostra oasi mi hanno detto noi organizziamo un evento per riapproparci del silenzio, ma adesso non voglio buttarla troppo sul filosofico, anche se il fatto di ritrovare il modo di stare bene insieme ha molto a che fare, perché noi molte volte cerchiamo di colmare questo vuoto con per esempio con le cose, comprando molte cose o sprecando. I dati sono grandi ormai sull'ora della Terra, 7.000 città coinvolte, 170 paesi, insomma partecipare fa ancora più comunità, una comunità globale diventa. Esatto, è un gesto semplice che unisce le città, le comunità che già esistono, ma anche le persone in tutto il mondo. Quest'anno poi abbiamo anche fatto un sondaggio per capire meglio se gli italiani ci sostengono in questa battaglia, e devo dire che la preoccupazione per il cambiamento climatico è altissima, siamo a livelli insomma di quasi il 90% delle persone. E anzi oltre il 90%, dall'altra parte c'è anche le persone sono pronte a fare qualche cosa, a cambiare lo stile di vita, quindi anche a cambiamenti profondi, chi più chi meno, ma insomma siamo sull'84%, 85%, e invece le persone denunciano la mancanza di un'informazione come quella che fai tu, costante, profonda. Sì, perché su questi temi molte volte se ne parla, che ne so, quando c'è il mese più caldo, ma non si affronta in modo continuativo. Sì, sicuramente, e dovremmo cominciare adesso, visto abbiamo detto prima che ci sarà il referendum, ma a parte quello in alcune città si vota, per esempio, cominciare a chiedere ai candidati cosa intendi fare su questo aspetto, sulla raccolta differenziata, esatto, sul cambiamento climatico, come ci proteggiamo, l'adattamento, la mitigazione, tutte queste cose che dovrebbero cominciare a essere parte della discussione. Assolutamente, molte volte la politica si preoccupa dei posti di lavoro nei fossili. Una sindacalista internazionale mi ha detto una volta una cosa molto giusta: ogni posto di lavoro che oggi creiamo nell'economia del passato è un posto di lavoro su, diciamo, per il quale dovremmo preoccuparci in futuro, perché il futuro non è lì. Quindi dobbiamo oggi invece cercare assolutamente di creare le condizioni per il futuro. Ma l'altra cosa importante è che non ci si preoccupa dei posti di lavoro che vengono distrutti dagli effetti del cambiamento climatico, che sono molti di più. Tutti vi ricordate il pastificio che rischiava di chiudere dopo un enorme alluvione nel Sannio. Quella è la punta di un iceberg che è molto profonda. Maria Grazia, io ti ringrazio per essere stata con noi anche in questa occasione. Allora, buona ora della terra a tutti, approfittatene per parlare, discutere, stare insieme e pensare anche a questi così, spunti che vi abbiamo dato in questa conversazione. Mi associo, grazie. Ancora un ringraziamento e un saluto a Maria Grazia Midulla del WWF, responsabile per il settore clima ed energia. E restiamo in tema, perché quest'anno il WWF ha trovato tra i tanti partner un partner nuovo e che ha un particolare impatto, diciamo, sul pubblico italiano, ma non solo, perché si parla anche di pubblico europeo. Questo partner è Sky, in particolare Sky Italia darà un suo contributo all'Ora della Terra con una serie di programmazioni speciali in vari canali: Sky Arte, Discovery Channel, Dea Kids, National Geographic Channel, ovviamente Sky Cinema, anche iniziative sullo sport. E quindi qui con noi c'è Marzia Kronauer, che è Head of Sky Responsible Business, benvenuta. E quindi, perché anche nello sport ci sono tutte queste iniziative? È la prima volta che come gruppo ci siamo schierati a sostegno di un'operazione di questo genere. Noi siamo parte di un gruppo europeo e abbiamo una forte responsabilità verso 21 milioni di clienti che abbiamo in tutta Europa e che ogni giorno ci scelgono. Questo è un atto simbolico: spegnere la luce, fare un piccolissimo gesto può aiutare a sensibilizzare tutto e richiamare simbolicamente l'attenzione su quello che sono i cambiamenti climatici. Come media, tutta questa settimana abbiamo lavorato per offrire una serie di programmi su questo tema, quindi ci saranno molti interventi, molti documentari, cinema, cose per bambini di tematiche ambientali. Si sono uniti a noi anche una serie di società sportive, per esempio la Roma, ci saranno i capitani della serie B che indosseranno una fasce verdi, e ci saranno anche i capitani delle squadre di basket che giocano con noi, che avranno una maglia verde nel riscaldamento, per culminare poi con la partenza della Milano-Sanremo, in cui i ciclisti porteranno anche questa fascia con insieme i loghi di Sky, dell'Earth Tower e del WWF, che di base è il promotore di questa iniziativa, che domani sarà impegnato anche lui in una serie di attività. Allora, complimenti, grazie e appuntamento all'anno prossimo per riprendere il discorso. Grazie, buona giornata. Mille, arrivederci. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per l'ascolto. Ricordatevi, dalle 20.30 alle 21.30 celebrate in qualche modo, come preferite, l'Ora della Terra. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.